Andrea Tosatto. La città può riprendersi dalla crisi economica nel momento in cui crollerà una certa narrazione portata avanti da un'elite pedosatanista mondialista che vuole un grande reset e una ristrutturazione socio-economica globale, altrimenti non ci sarà nessuna ripresa, proprio perché chi tira da sempre i fili del mondo non ha nessuna intenzione che avvenga una ripresa. Sta portando avanti un tentativo di trasformazione socio-economica e quindi non ci sarà ripresa, a meno che non ci si liberi di questa tirannide. Allora ci può essere un cambiamento sicuramente rispetto a quello che avevamo prima, però un cambiamento pensato da tutti, nell'interesse di tutti, senza lasciare indietro nessuno. Adesso stanno spacciando la transizione, qualcuno sta spacciando la transizione digitale come eventualmente un rimedio nei confronti di quello che è successo, quando invece quello che è successo è stato brutalmente strumentalizzato per portare avanti una transizione digitale e poi automazione, tecnologizzazione estrema, proprio diciamo sfruttando ciò che ci hanno messo davanti agli occhi, cioè la pandemia da Covid. Non si tratta di rimedi, tratta di cose che si voleva imporre anche in maniera celere, e quindi serviva un alibi, e questo alibi perfetto si manifesta nel coronavirus.